Con Alessandro Tiberio di Wanted Cinema per parlare del film Lucky di John Carroll Lynch in sala il 29 agosto. Alessandro, ben trovato. Grazie, ben trovati anche a voi, sempre un gran piacere. Lo presentiamo? Sì, certamente. Allora, Lucky è l'esordio e la regia di John Carroll Lynch. John Carroll Lynch è uno degli storici, indelebili, irriducibili caratteristi del grande cinema americano. Sicuramente, insomma, è uno dei volti più utilizzati e più iconici di film da, possiamo dire, ora ricordo così a naso, Zodiac di David Fincher piuttosto che Face Off, ha fatto tantissima televisione, American Horror Story, è insomma un grandissimo attore e ha voluto esordire nella regia di un lungometraggio con un omaggio a un altro immenso caratterista del cinema americano che è Harry Dean Stanton. Harry Dean Stanton è uno degli attori di culto di registi come David Lynch, come Wim Wenders, ma è trasversale, insomma, per 60 anni è stato uno dei volti più strani, pazzeschi, forti del cinema internazionale. Purtroppo ci ha lasciati l'anno scorso a settembre e questo film vuole essere un omaggio a questo grande personaggio, non soltanto chiaramente in quanto carriera, ma anche come persona, nel senso che il film parla di questo Lucky, che è un anziano quasi novantenne o ultra novantenne che vive nel deserto praticamente americano e ha tutta una sua visione della vita, visione anche cinica, anche dura per certi versi, ma estremamente poetica. E appunto lui, arrivato alla soglia dei 90 anni, per la prima volta ha una sorta di svenimento che mette in discussione la sua salute, la sua forza fisica, ma appunto andando poi da dottori, facendosi analizzare e quant'altro, tutti gli dicono che non c'è niente di strano, è soltanto già un record e qualcosa di straordinario l'essere arrivati in questo stato di grande forza emotiva e fisica a quell'età. E da lì parte una sorta di pellegrinaggio di quest'uomo, di questo Lucky, in un mondo di personaggi bizzarri, strani, della sua comunità, di diversi, con cui lui si confronta appunto con questa grande riflessione su quale sia poi, diciamo, alla fine il senso della vita. Il film è interpretato anche da David Lynch, che fa insomma, un cameo abbastanza esteso a più scene proprio per omaggiare questo grandissimo attore che è stato uno dei volti del suo cinema e ha una parte divertentissima, pienamente nelle corde di David Lynch, e devo dire che il film stesso ha alcune scene in cui si percepisce in maniera molto forte l'influenza di David Lynch. Come ti dicevo prima, oltre ad un omaggio ad un grande attore, una vera e propria maschera di certo cinema indipendente, una grande sceneggiatura, secondo me, è uno dei migliori film della stagione. Volevo chiederti, ecco, come lo avete incontrato e cosa hai apprezzato di più nel film? Io il film l'ho trovato possiamo dire, una ballad in senso musicale, cioè Sì. proprio una Sì. ballata. Potrebbe essere un film posso forse far arrivare vicino a Nick Cave, se devo fare un parallelo un po' tirato. L'abbiamo visto il film al Festival di Locarno dell'anno scorso, dove per tantissimo tempo, insomma, o almeno sicuramente è stato uno dei film più amati dell'edizione scorsa, tanto che speravamo tanto di ottenere un premio, ma alla fine poi le cose sono andate diversamente. Ci ha convinto per questo misto di tenerezza, di profondo umanesimo e di malinconia, che devo dire, ecco, è un'esperienza che rimane impressa. E poi chiaramente l'affetto e la stima che c'è per per la maschera, come hai detto tu, di Harry Dean Stanton, che è assolutamente per noi, insomma, è quasi un feticcio, ecco. Sì. Alessandro, quante sale? Questa volta devo dire, guarda, nelle ultime settimane, nonostante la pausa estiva e quant'altro, il film ha avuto cioè il registro, una crescita di interesse veramente impressionante. L'abbiamo visto tra i followers sia su MyMovies sia in tanti altri canali, che c'è un endorsement veramente notevole, e questo si è trasferito anche in un numero di sale che in questo periodo reputiamo, insomma, un bel successo, perché siamo in quasi 40 sale in tutta Italia. Bene, allora Sono ricordiamo date più o meno vicino a casa vostra, quasi ovunque, speriamo. ricordiamo l'uscita del film Lucky di John Carroll Lynch il 29 agosto per Wanted Cinema. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tiberio. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Alessandro. Grazie a voi, alla prossima. Ciao. Grazie mille.